Investire informati. Allora, parto io, Mauro, perché tu sai che sono voluta ritornare su questo suggerimento che ci ha dato un ascoltatore che ci ha scritto qualche giorno fa. Già questa mail l'avevo letta la settimana scorsa, ma ci ritorno perché poi ci abbiamo proprio voluto costruire attorno una trasmissione. Allora, gentile signora Rosciani, seguo da anni la vostra trasmissione, l'ho sempre ritenuta una trasmissione di servizio, ma a questo punto mi sento di voler fare un appunto. Da parecchio tempo, lo rimarca, nemmeno ricordo più da quanto, il giovedì di Investire Informati si limita a chiamare qualcuno, a dire che c'è molta liquidità nei conti, suggerite di non credere a chi promette grossi rendimenti e chiamate un consulente o un amministratore delegato di turno, indipendente o meno, che racconta la sua storia prodotto. Questo è un po' meno vero, lo dico all'ascoltatore, perché difficilmente, anzi direi che proprio per niente da noi si parla di prodotti, ma non trovo più varietà o informazioni, sono sempre le stesse. Specie in momenti come questo, potreste parlare di strumenti sicuri? Alternate almeno un giovedì con un qualcosa a favore delle banche o qualcos'altro, e parlate di qualcos'altro anche che sia a basso costo e rischio, altrimenti come al solito si finirà di parlare di risparmio tradito. Il motivo? Perché si parla solo di prodotti di questo tipo e quando c'è un crollo come quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, la gente dirà: ma in banca non mi hanno detto che c'erano anche i conti di deposito. E allora, Mauro, come rispondere a questo? Allora, innanzitutto, guarda, io potrei dire una cosa a favore delle banche, che ci ha scritto adesso un bancario sul numero Bene. WhatsApp 349-238-6666. Dice: a difesa della categoria dei bancari, tengo a precisare che la maggior parte delle banche prestano consulenza per telefono e via internet. Se il cliente pretende consulenza fisica, è logico che trova difficoltà. Anche noi siamo esseri umani che vogliono cautelarsi. Questo abbiamo. Io ho parlato di altro. No, ma infatti questo io lo dicevo perché così abbiamo a favore il punto a favore. E adesso, con una continuità calcistica che forse ti era sfuggita, cara Debora, io introdurrei l'esperto planetario di oggi, che abbiamo proprio scomodato per discutere di protezione. Giusto, questa è un po' la parola chiave di oggi, Debora, indovino bene? E visto che molti ascoltatori e risparmiatori hanno scoperto in questo momento che avrebbero preferito essere protetti e scudati dalla volatilità dei mercati e quindi non avevano magari ben compreso di aver sottoscritto in passato magari prodotti di investimento con un piccolo margine di rischio, e allora sentiamo un po' come si può affrontare anche questo momento un po' complesso. Lo sentiamo con Carlo Mazzola, che è socio fondatore di No Risk, società di consulenza indipendente. La continuità ovviamente calcistica è data dal fatto che io di cognome faccio Meazza, lui fa Mazzola, quindi siamo tra attaccanti di valore storico e assolutamente mondiale. Buongiorno e benvenuto, perdoni la celia, dottor Mazzola. Buongiorno a tutti e grazie dell'introduzione. Tra l'altro, l'esperto planetario crea grandi aspettative, come nel mondo degli investimenti, in cui poi ci si aspetta grandi rendimenti che poi non succedono, quindi questo è creare un contesto che ogni tanto poi non si verifica. Vabbè, ma vediamo, infatti, magari invece vinciamo una Coppa dei Campioni, dottor Mazzola. Sarebbe bello, e tra l'altro con mio cognome avrei anche piacere di rivincerne una dopo 10 anni, quindi molto volentieri. Sì, è molto. No, se volete andare avanti da soli, io me ne vado anche, per carità del cielo, se vi disturbo qui in mezzo. No, non ti preoccupare. Si alza il livello del testosterone. No. Sappiamo di aver toccato un argomento per te che tieni per quella squadra di Torino un po' doloroso, però andiamo invece ai temi seri della giornata, dottor Mazzola. Allora, protezione, vo' cercando che si cara, direbbe il poeta. Diciamo che anche ascoltando la mail si fa sempre un pochettino di confusione e si mettono insieme desiderio di protezione, desiderio di guadagnare, sembra che manchi un pochettino la bussola, no? Come un marinaio che esce quando non sa dove andare e poi fa un po' fatica indipendentemente dalle condizioni. Io credo che sia importante, quando si parla di protezione, parlare subito del concetto di rischio. Il concetto di rischio è un concetto soggettivo. Come vogliamo definirlo? Forse il rischio è un qualcosa che è successo e che sostanzialmente era inaspettato. Rischio quando esco di casa e si mette a piovere e non ho l'ombrello. Se penso al mercato finanziario, ho fatto un investimento e il rendimento che ho ottenuto è stato molto inferiore a quello che mi aspettavo. Ecco, nel mondo del investimento senza rischio, noi forse ci siamo abituati da tanti anni che si potesse investire senza rischiare, quindi portando a casa gli stessi soldi, anzi con un qualcosa in più. Adesso, complice la grande liquidità, il grande flusso di denaro che c'è sul mercato, gli investimenti con esenti da rischio ce ne sono proprio pochi, vanno cercati col lumicino. Ma vorrei darvi un numero che credo che sia utile anche ai radioascoltatori. Io penso che un investimento da rischio della mentalità di noi italiani sia prestare i soldi ai tedeschi, no? Lasciamo stare tutte le considerazioni politiche del caso. Ecco, se noi prestiamo i soldi ai tedeschi, sostanzialmente per ogni 100 euro che prestiamo, loro ce ne danno indietro dopo alcuni mesi o alcuni anni meno. Vuol dire che adesso prestare i soldi ai tedeschi significa sottoscrivere un titolo di Stato tedesco, non Bund. Assolutamente, quindi l'equivalente dei nostri BOT che sono adesso in collocamento, alcune tipologie di titoli di Stato italiano che saranno in collocamento nelle prossime settimane. Quindi questo ci fa pensare che sostanzialmente l'idea di fare un investimento in cui non si rischia è al momento molto difficile. Possiamo poi agganciarci a quello che dicevamo prima, è che cos'è per ciascuno di noi il rischio? Cioè, a un certo punto, perché tutti gli investimenti possono avere dei rischi che si portano dietro. Pensiamo all'investimento immobiliare, quello di cui si parla sempre pensando che non ci sia rischio. Se uno a un certo punto vuole avere un tetto sopra la testa e viverci tranquillamente, probabilmente è indifferente alle oscillazioni del valore della propria casa. E questo rispecchia quello che è il credo di molti di un investimento immobiliare senza rischio. Se invece uno fa una speculazione immobiliare per rivenderla dopo un po' di mesi o un po' di anni a un prezzo più elevato, le oscillazioni possono toccare. Questo credo che serva da una parte anche per difendere gli intermediari finanziari, di cui io sostanzialmente non sono mai stato particolarmente amico, ma nel senso buono, nel senso che non si può chiedere di avere grandi rendimenti dati dai mercati azionari e poi aspettarsi che tutti gli intermediari finanziari all'inizio di febbraio o marzo di quest'anno chiamassero i clienti dicendo vendete, vendete, vendete. Questo è un po' quello che tutti chiedono, ma in realtà non funziona così, ma non hanno neanche loro la sfera di cristallo, non si può neanche chiedere a chi vende prodotti finanziari. Bisogna chiedere che aiutino gli investitori a capire dove vogliono andare. Questo è un tema che abbiamo affrontato già in più occasioni e anche nelle pillole, ne sentiremo alcune pure nella puntata odierna dei vari consulenti che abbiamo interpellato, ritorna spesso, cioè se è stato costruito un piano di investimento coerente con le nostre necessità, questo non è il momento di smobilizzi immediati e come dire, che rischiano di essere anche poco produttivi. Però è indubbio che forse qualche spostamento a favore di qualche altro prodotto potrebbe starci, o no, dottor Mazzola? Sì, allora usavi la parola coerente, che mi sembra perfetta per dire effettivamente che hai costruito qualcosa. Poi, se il mondo è cambiato, il mondo può essere cambiato anche che se uno perde dei soldi sostanzialmente, ci può stare che diventi un pochettino più conservativo, perché sostanzialmente è come se avessi, non può permettersi di rischiare di più, no? Se perdi 30.000 euro partendo da 100.000 vai a 70.000, ma se tu dovessi partire da 40.000 euro e vai a 10.000 la tua propensione al rischio cambia. Quindi sicuramente ci sono delle modifiche che si possono apportare. Quando si diceva prima che i consulenti rispondono al telefono e sono in contatto con i clienti, è importante in questo momento confrontarsi senza chiedere di avere la sfera di cristallo. Quello che si può dire, guardando anche la situazione italiana dove c'è tantissima liquidità, e non dimentichiamo che l'investimento in conto corrente, che tutti noi percepiamo esente da rischio, porta comunque dei rischi perché stiamo prestando dei soldi a delle banche e al momento non ci sono scenari di crisi sul settore finanziario, ma comunque stiamo prestando dei soldi delle banche a zero remunerazione. Quindi anche un investimento in un conto corrente può portarsi dietro in scenari estremi quello che può essere una perdita di una parte del capitale. Credo che in un momento come questo, se uno guarda, i mercati comunque sono scesi rispetto a quello che era 20 giorni fa, un mese fa, può essere un momento per fare una riflessione in cui, se uno ha un orizzonte di lungo termine, perché no comprare qualcosa? Se invece vuole dormire sonni tranquilli, a un certo punto il denaro e l'investimento finanziario, abbiamo capito che va a questione di momenti, se uno non vuole rischiare, io non vedo niente di sbagliato a un certo punto se è in coerenza di vendere anche qualcosa per stare tranquilli. Perché comunque l'imprevedibilità, io credo che sia importante che tutti noi ce lo ricordiamo, Cioè, i mercati finanziari sono imprevedibili e perdere soldi non fa piacere a nessuno, ed è per questo che poi tutti noi veniamo presi dallo sconforto, dai dubbi psicologici e cerchiamo sempre di incolpare qualcun altro, no? Ma perché di fatto abbiamo sofferto, abbiamo perso del denaro. Allora, fatto salvo il principio, spero che mi sentiate bene, perché secondo me il sistema mi sta facendo dei capricci, ma adesso magari me lo direte da studio. Per ora sei stabile, Deborah. Ottimo, fatto salvo il principio che dobbiamo ovviamente considerare il fatto che quello che è rischioso per qualcuno è rischioso in misura diversa per un altro risparmiatore, stabilità degli obiettivi finanziari, teniamo ferma ovviamente la nostra pianificazione, e questi sono i punti, i capisaldi appunto del nostro programma, però qualche ragionamento anche sugli strumenti di investimento che hanno differenti gradazioni appunto di rischio, forse vale la pena farlo. Allora Mauro, io ti propongo, intanto ti ridò il microfono, così come tutte le mattine molto carinamente mi lanci per la borsa, direi di fare anche un po' un ABC degli strumenti finanziari che hanno magari un po' meno rischio di tanti altri, perché magari è utile anche ai nostri ascoltatori offrire una panoramica in questo senso. Ma buttiamo lì anche delle parole: polizza, conto di deposito, tenere la liquidità. Molti ci stanno scrivendo così, 349-238-6666, oppure se volete intervenire in diretta 800-24-0024. Ma adesso Deborah dici bene, sono le 11:30 minuti e 11 secondi ed è il momento delle borse.